e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera, noi siamo in diretta con la Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Armando. Alessandra, buonasera. E come sta andando la serata, ragazze? Benissimo. Bene, bene. E da dove venite, se posso chiedere? Dal lago di Seo. Wow. E amiche, cosa amiche. Siete? Wow. Amiche. Di tutto, in tutto e per tutto. Tutto e per tutto. Vergini. Vergini, soprattutto vergini. Vostro è il tavolo delle vergini, esatto. Giusto? Wow, adesso ho capito, ok. Sì, siamo noi. Sì, fantastiche siete, ragazze, ve lo posso dire? Siamo tornate. Più forti di prima? Sì, esatto. Ci sta come cosa, no? Sì. E cosa... Non vuoi sapere perché lei si chiama Armando? La chiamano Armando? Perché la chiamano Armando? Dai, amica mia, racconta. Io sono curiosa di saperlo. Infatti quando ho detto Armando ho detto forse ho sentito male io. Ma no, ho detto Armando. Ha detto Armando. Perché pisci in piedi. Vabbè, ci sta, è stata sincera, eh. Ecco, allora mi hanno dato il soprannome Armando. Però in realtà mi chiamo Tania. Tania, ok. Bel nome Tania, non russo. È? Non è da qua però Tania, no? Sì, è russo. Quindi parlo poco della Russia perché. Sì. Non sono russa, sono bergamasca. Ah, sì. Io no, bresciana. Vabbè, siete tutte del nord. Sì. Io sono la grande sorella del confessionale, ma sono napoletana. Cavoli, grande, bella Napoli. Bellissima. Siete mai stati a Napoli? No. No. Vai. Dovevamo andare io e mia sorella quest'anno, ma poi alla fine non siamo andate e andremo l'anno prossimo. Non dovete farvi scappare questa no, gita no, giù a andiamo, Napoli, andiamo. Cioè, Napoli è bella. Napoletana. No, perché è bella. Se andate lì, mi sa che non tornate più su, ve lo dico. Ma chi c'è fuori che ci sta facendo? Sono le altre vergini. Peggio di noi. Come si chiamano? Luisella, Stella, Laura e Melissa. Wow. Sì. Diciamo che siete tutte belle cariche, sì, si sì. Vede, si percepisce la vostra carica. Sì. E poiché siete amiche da tanto tempo, sì. Come siamo adesso belle cariche? Proviamo a fare una dedica? Sì. Cosa dite? Amiche. Certo. Sì, ti lascio, ti passo, ti concedo la mano, amore. No, no, fai la dedica. No, falla te! Questo poi che gli dedico. Dai, Armando, ci puoi. Allora, Armando gli vuole molto bene. Faccio le serate. E non date il culo gratis! Allora, io consiglio a tutti di ricordarti di far pagare sempre tutte le tue prestazioni. È giusto. Perché sennò ti ritrovi 50 anni a non avere né i soldi né un cazzo, quindi fai pagare tutto. È giusto, è giusto. Ci meglio sta. I soldi del cazzo, ricordati. Ecco. Siamo in diretta. Ah, siamo in diretta? Quindi basta parole, scusate. Se no non riusciamo a mandarle in onda. Ah. Ho anche due bambini piccoli anch'io. Ok, quindi 22 e 17. Giustamente 22, bambino piccolo. Sì. Ecco, lui sì. Ci vuole molto bene. A lui ci vuole molto bene. Sente. Esatto. Sì, ci ha fatto delle bellissime foto. Sì, sì, è il Mr. Dave della nostra serata. Sì. Come ci guardano, curioso di sapere cosa stiamo dicendo le vostre amiche fuori, è una cosa fantastica. Perché vogliono entrare? Perché lo sanno che quando non perché volete entrare? Presenti, vuoi entrare? Sputeniamo. In è me? Giusto. Vuoi entrare in me? Ha detto che ci legge il labiale, sto cercando di leggere il labiale. Di Armando. Sì, Armando. Sì. Ah, ok. E gli vogliamo tanto bene, no? Comunque adesso faccio la persona seria. Io voglio molto bene queste mie amiche perché sono speciali e mi fanno star bene. Ed è una cosa bellissima. Si vede che ti stai anche emozionando. Sì. Questa è una cosa. Sì. Perché recentemente ho fatto una tessera che mi servirà per la crematoria. Ma dai. Sì. Ci va a punti. Come quelli della Conad. Questa è la prima volta che la sento, non l'avevo ancora sentita. Sai che c'è, farò anche una dimostrazione la prossima volta che verrò al convento. Va bene. Mi salgono i punti. Ok, allora mi troverai e io sono curiosa di sapere questa tessera. Ok, almeno iscrivi? Sono informata almeno. Mi dai il punteggio a me, almeno così io okay. Il funerale non lo pago, cavolo. Quello che costa. Va bene. Okay. Ok. Io vi lascio una buona serata. Facciamo entrare anche loro. Anche perché così quella lì ti dice dove andiamo il 15 luglio. Ok. Anche il concerto. Wow, sono curiosa, allora la faccio entrare. Sì. Vi auguro una buona serata, ciao, allora. Ciao, ciao, ciao.